certo anche la mia anima. C'è molto tempo, se non mi sento dentro. C'è molto tempo, anche se fuori fa. C'è molto tempo, se non ti sento accanto. C'è molto tempo, anche se fuori fa bello. E c'è quell'innegabile fantasia di averti sempre soltanto mia, di accarezzarti quando ti senti giù, di farmi stringere un po' di più. Se poi ti penso in tutti i torti non ho, nel mio sentirmi malinconico, quasi tutti i giorni a metà, nel non riuscire a darti l'anima. Sono rimasto intrappolato qua giù e non riesco a risalire più. Tra tuoni e lampi le mie peripezie, oh, fuori c'è il sole e devo uscire.